Ci sono momenti nei quali occorre prendere decisioni drastiche, ed il nostro tempo le merita. Da tempo si parla di guerra all'intelligenza, intendendo con questo termine la progressiva aggressione concentrica alla libertà di stampa, alla cultura, al principio dell'istruzione universale, fino alla mistificazione della scienza. Un'aggressione che si realizza nella sinergia tra coloro che non vogliono leggi capaci di arginare il loro spropositato potere economico e i loro complici o momentanei alleati. Un attacco che muove dall'imposizione di comportamenti utili alla creazione di cittadini consumatori e finisce con la diffusione e protezione delle dittature e delle sette che proliferano minacciando con un'arma in mano ed un testo sacro nell'altra. Scendiamo in guerra e recuperiamo il senso delle parole e della giustizia sociale. Riconosciamoci tra esseri umani e recuperiamo e difendiamo quel che abbiamo di più prezioso. Combattiamo l'oscurantismo. È il momento nel quale ogni persona che abbia a cuore l'esistenza di un'etica condivisa, dell'eguaglianza, della giustizia, è chiamato a schierarsi in loro difesa. Ogni uomo o donna, religioso o laico, che si senta di destra o di sinistra, povero o benestante, è chiamato alla guerra in difesa dell'intelligenza. Occorre maggiore collaborazione possibile tra quanti si sentano minacciati da questa alluvione oscurantista e occorre che tutti difendano l'agibilità dei mezzi di comunicazione. Occorre recuperare la didattica, ricominciando da quei principi, da tempo trascurati, che si ritenevano condivisi e ormai metabolizzati. Serve un impegno didattico massiccio per evitare che le conquiste degli ultimi 200 anni vadano in fumo, a prescindere dalla propria appartenenza. Questa è una guerra che si vince o si perde insieme. Fino a quando permetteremo loro di dirci che le guerre sono uno strumento per diffondere la democrazia, saremo loro complici. Fino a quando permetteremo loro di nascondersi dietro Dio, non li potremo colpire. Fino a quando permetteremo loro l'esercizio della censura sulle teorie scientifiche, saremo destinati al disastro. Liberiamo il minimo senso comune, da troppo tempo ostaggio degli autoproclamati padroni del vapore. Combattiamo in difesa del senso delle parole, prima di farci depredare e prima che tutto ciò per il quale i nostri avi hanno speso il loro sangue si dissolva. La guerra è cominciata da tempo, è ora di scegliere se combatterla o rassegnarsi passivamente alla sconfitta e rifugiarsi dentro le mura di casa, a vivere gli ultimi fuochi di un mondo che domani non ci sarà più. Mazzetta per Reporter Associati e Amisnet Radio.